Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Questioni di chilometri, il cielo basso, le mani sudate. L'Italia ci scorreva dolcemente sotto i piedi ai lati della strada. Questione di significato da attribuire alla parola libertà. Buongiorno, l'Italia è un paese vecchio, di vecchi e per vecchi. Questo probabilmente molti di voi lo sanno. Però una cosa che forse poco nota e che ce lo dice anche l'Unione Europea. L'Unione Europea ogni anno pubblica una classifica che si chiama Innovation Union Scorecard e che dà un punteggio alla capacità di fare innovazione ai suoi vari stati. E quindi divide 4 quadranti: ci sono gli innovation leader, ci sono gli innovation follower, cioè il secondo gradino, ci sono i moderate innovator e poi ci sono i modest innovator. Dove si trova l'Italia in questi 4 quadranti? Indovinate un po'. Non siamo nei modest innovator, siamo nei moderate, cioè il gradino penultimo, ma è un gradino un po' sfigato comunque dal punto di vista dell'innovazione, perché nei modest innovator, cioè peggio di noi, ci sono Bulgaria, Lettonia e Romania. Tolte Bulgaria, Lettonia e Romania, in tutta l'Unione Europea ci siamo noi. Ecco perché ha senso dire che, al di là delle intuizioni, che l'Italia è un paese vecchio di vecchi e per vecchi. Però c'è anche chi non ha perso le speranze. C'è chi pensa di far leva sulle imprese innovative che vogliono trovare un loro significato e creare una via italiana all'innovazione. Uno di questi che hanno fiducia nelle possibilità di fare innovazione dell'Italia è il professor Carlo Bagnoli, che ormai è un amico di questa trasmissione perché l'abbiamo spesso ospite, che insegna innovazione strategica a Ca' Foscari e che con la collaborazione di Banca Intesa ha organizzato una biennale dell'innovazione che non è si terrà a metà luglio a Venezia e non è il classico evento. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti voi. Allora, questa Biennale dell'Innovazione è uno dei tanti convegni che ci ammorbano la vita? No, non vuole essere assolutamente così, perché appunto ce ne sono molti. Vorrebbe essere un forum, innanzitutto non a indirizzo politico, quindi non ci saranno politici, non parliamo ai politici, ma parliamo agli imprenditori, ai manager, alle persone che sono in frontiera. Vorremmo parlare alle persone che sono in frontiera ogni giorno nel fare, nel creare valore, e non è neanche un evento di tipo commerciale come altri eventi che in qualche modo che caratterizzano il nostro paese. Cioè, a partire da lì lei vorrebbe creare un hub dell'innovazione in Italia. Ma noi, l'altra cosa che caratterizza questo evento è che noi, dopo 2 anni di ricerche, abbiamo sviluppato un manifesto per lo sviluppo di un nuovo modello imprenditoriale e abbiamo cercato per ogni singolo elemento di questo manifesto, noi come Università Ca' Foscari assieme al gruppo Intesa San Paolo, abbiamo cercato di identificare i massimi esperti su ogni tema, chiamandoli a confrontarsi su quelli che sono i punti in qualche modo fondamentali che noi abbiamo identificato per immaginare appunto una via italiana all'innovazione e iniziare a creare un dibattito, una discussione che però non vorrebbe fermarsi all'evento in sé per sé, ma creare una community. Ecco, creare una community la di devo persone. Interrompere perché abbiamo gli avvisi sul traffico e la pubblicità, ma ce li spiegherà bene queste cose nella seconda parte della trasmissione. I nostri ascoltatori, volevo solo dire che io in esergo vi ho fatto sentire 150 Sprint Veloce, che è una canzone del gruppo Rain, che parla proprio dell'innovazione e dell'andare veloci. Questo gruppo è interessantissimo perché fanno canzoni sull'innovazione, sulla sostenibilità, su alcuni concetti che sono molto moderni e di un paese moderno, e le rendono in modo rock molto provocante. Tra l'altro parlano anche del tema del significato, e le imprese significanti, che sono quelle che sanno dove andare, che cosa vogliono, sono un po' al centro del concetto di innovazione che, dopo gli avvisi sul traffico e la pubblicità, il professore ci racconterà. Restate con noi! Fabbrica 2.4. Questione di chilometri il cielo passo. Rieccoci in linea col professor Carlo Bagnoli, che nonostante questo sia un paese vecchio di vecchie per vecchi, come ho detto in esergo, vorrebbe potenziare l'innovazione che alcune aziende un po' eroiche fanno e creare un sistema. Ci stava parlando prima del vostro manifesto di Innovaria sull'innovazione. Quali sono i punti fondamentali? Ma i punti fondamentali sono il fatto che non riteniamo l'innovazione tecnologica in qualche modo come l'unica fonte di innovazione o l'unico in qualche modo via per l'innovazione, ma crediamo esista un'innovazione sul design, un'innovazione appunto di significato che, su cui l'Italia può effettivamente giocare da padrone. Innovazione di significato, per innovazione di significato si intende dare significati diversi o comunque più profondi ai prodotti che realizziamo, in maniera da non puntare solo su prestazioni che sono necessarie, sono fondamentali, ma possono essere in qualche modo messe un po' nel dietro, un po' nel background, rispetto invece a immaginarsi prodotti con significati completamente nuovi. Una volta, faccio un esempio molto banale per capirci, le lampade una volta servivano per illuminare, per leggere, poi sono diventate oggetti di design ed arredo che ad esempio le persone, l'Italia in questo è sicuramente invece un innovatore, le persone comprano per abbellire, arredare in qualche modo i propri contesti di lavoro, i propri contesti di civile abitazione, e magari tenendole anche spente. Ecco, ma perché in Italia si innova così poco, per cui secondo la stessa Unione Europea noi siamo migliori solo di Bulgaria, Lettonia e Romania? Beh, però ci possono essere secondo me due riflessioni su queste. Uno, che i dati vanno sempre letti, quindi fondamentalmente queste statistiche si basano soprattutto su tematiche di brevetti, quindi riconoscimenti soprattutto di innovazioni di tipo tecnologico, e quindi bisognerebbe andare a scavare oltre questi dati. Queste misure sono fatte soprattutto da paesi nordici, Germania e paesi nordici, che in qualche modo dominano la politica europea, e quindi occorrerebbe guardarli bene. Dopodiché è altrettanto vero che in Italia purtroppo noi abbiamo una grandissima capacità di inventare, quindi di immaginare, è più difficile invece la capacità di portare queste invenzioni sul mercato. Faccio un esempio eclatante: noi a Venezia, addirittura la mia città, si è inventato il consumo del caffè al bar. La tradizione dei bar italiani come anche luoghi di incontro, agorà, piazze di discussione, è nata proprio in Italia. Però chi è riuscito a creare la catena di questi caffè è stato Starbucks. Quindi la nostra difficoltà non è tanto creare valore, perché lo riusciamo a creare, in realtà è la capacità di scalare, cosa che invece hanno paesi più organizzati come la Germania, gli Stati Uniti o il Giappone. Questa però è, lei è speranzoso nel fatto che questo gap si possa colmare? Sì, perché dicevo, quando si parla di innovazione bisogna porsi due problemi, bisogna risolvere due sfide: uno, creare valore; due, in qualche modo riuscire a scalare questo valore. Ecco, noi abbiamo talmente tanta potenzialità nel creare valore che spero che sia talmente grossa questa potenzialità da riuscire in qualche modo anche a sopperire la nostra incapacità invece di scalare il valore, che è un problema di organizzazione. Tra l'altro sempre più e sempre più persone affermano che ciò che veramente crea valore è qualcosa che è unico al contesto e quindi non scalabile. Quindi qualcosa di significante. Lei è il grande teorico dell'impresa significante. Sentiamo un attimo ancora i Rain, che dicono che è una questione di significato. Questione di significato da attribuire alla parola libertà. Cioè, è una questione di significato, ce la spiega? Beh, il concetto dell'impresa significante ha due valenze. Uno, l'impresa deve diventare significante, ossia è una valenza del suo ruolo nella società. Per troppo tempo noi, anche per un problema di cultura cattolica, a differenza della cultura calvinista, abbiamo visto l'impresa e l'imprenditore solo in termini negativi. Forse solo con le crisi, con le ultime crisi, abbiamo capito che fondamentalmente se poi non ci sono posti di lavoro, come posso dire, la situazione peggiora per tutti. Quindi c'è un problema di ridare significato positivo, coinvolgendo soprattutto gli umanisti nel raccontare storie di imprese che hanno fatto del bene, e ce ne sono tante, ce ne sono molte, direi assolutamente la stragrande maggioranza, e invece i giornalisti in qualche modo evidenziano troppo spesso solo le storie negative a livello di imprese e imprenditori, ma è anche il problema in qualche modo di porsi di concentrarsi appunto su creare talmente tanto valore e di condividere questo valore, cioè condividendolo, tentare di moltiplicarlo. E questo è un po' il vostro sforzo di innovare, quindi voi volete fare praticamente quasi un movimento, no, delle imprese significanti. Sì, movimento, abbiamo fatto un manifesto, vorremmo fare un movimento, anche se sono parole in qualche modo così delicate a livello politico, vorremmo fare una community, vorremmo creare un gruppo di persone aperto che però vogliono confrontarsi in maniera sistematica su quelli che sono possibilità di innovazione a tutti i livelli, quindi sia di innovazione strategica che di innovazione organizzativa, ma anche di innovazione tecnologica, sebbene il confronto lì sia un po' più verticale, per far sì che delle idee intelligenti che sono nate in alcuni settori possano essere portate in altri settori, aumentando la capacità competitiva delle nostre imprese. Ribadisco, abbiamo talmente tanto potenziale come paese, nel momento in cui si afferma il ruolo della cultura, dell'arte, nel riuscire a immaginare prodotti nuovi, voi capite che l'Italia su questo non può che giocare da padrone. La cosa che secondo me è imbarazzante è che a un certo punto si apre in Silicon Valley, no, il tema che se l'economia digitale deve avere un approccio umanistico, quindi rimettendo al centro l'uomo, e non si apre, e non siamo noi in qualche modo o non ancora i detentori di questo dibattito, quindi di un'economia digitale umanistica, quando il mettere al centro l'uomo è avvenuto innanzitutto col Rinascimento, il Rinascimento italiano, quando l'uomo vitruviano, l'opera in qualche modo più evocativa del Rinascimento italiano di Leonardo da Vinci, con l'uomo al centro, è esposto alle gallerie dell'Accademia a Venezia e magari molti di noi neanche non lo sanno. Ecco, parliamo ancora un attimo di questo evento, la Biennale dell'Innovazione, che si terrà dal 14 al 16 luglio, giusto? All'isola di... Dal 15 al 16 luglio presso l'isola di San Servolo, che è una parte integrante di Venezia facilmente raggiungibile. L'isola di San Servolo è fronte a Piazza San Marco ed è interessante perché era il manicomio della Repubblica Serenissima, quindi siamo andati, adesso è stato chiaramente ristrutturato per fare un centro in qualche modo di, appunto, per ospitare eventi, e noi porteremo 100 imprenditori selezionati da Intesa, dal gruppo Intesa. Gli altri sponsor importanti sono KPMG e Cisco, che hanno aderito a questa iniziativa, oltre ad altri sponsor più tecnici. Noi stiamo selezionando i 100 imprenditori più innovativi, che non è detto che siano i più grandi o quelli che fanno più fatturato, ma quelli che hanno più mentalità aperta, per portarli a confrontarsi su questo manifesto, quindi una traccia molto definita, quindi manderemo in anteprima a tutti quelle che sono le conclusioni delle nostre ricerche. Abbiamo invitato personaggi, credo, di primo valore a discutere di questi temi. Si va da Andrea Guerra di Italy, il nuovo amministratore delegato di Italy, a Marco Annunziata, che è chief economist di General Electric, a David Orban, che è l'ambasciatore della Singularity University per l'Italia. C'è anche l'architetto Michele De Lucchi. C'è l'architetto Michele De Lucchi che apre, proprio in questa sua veste, perché noi appunto cerchiamo in qualche modo di portare l'innovazione dentro le imprese partendo dall'arte dell'architettura. Noi abbiamo l'evento forse più importante al mondo, Biennale Arte, Biennale Architettura a Venezia, e abbiamo cercato di farci contaminare da questo evento, chiaramente di una rilevanza straordinaria, per dire come l'arte e l'architettura possono essere reinterpretate all'interno delle imprese per fare innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione, di strategia. Quindi apre l'architetto De Lucchi proprio per fare questo collante. Lui tra l'altro è un architetto sia di esterni che di interni, cioè quindi sia un designer che un architetto. Ecco, ma le informazioni sull'evento dove si possono trovare? Beh, è un evento a numero chiuso, a invito, e quindi noi adesso usciremo, penso, nei prossimi giorni con delle comunicazioni sui giornali, però è proprio un evento rivolto a selezionati imprenditori. Dopodiché, se qualcuno, magari nella nostra così analisi che abbiamo fatto a livello Italia, quindi saranno imprenditori da tutta Italia invitati, è particolarmente interessato, avrà la possibilità di contattarci e assieme valuteremo la possibilità. Certamente. Di inserirlo nel panel. Purtroppo il tempo è tiranno, mi auguro comunque di averla ancora qui ospite in trasmissione, perché lei è sempre di quelli con maggiore indice di gradimento, ma ora la devo ringraziare e salutare. Arrivederci a tutti e grazie a voi per avermi invitato.